Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Seduto innanzi all'ampia scrivania su cui stavano schierati tutti intorno prospetti e relazioni irti di cifre, il segretario aspettava che Sua Eccellenza il ministro si ricordasse che doveva riprendere a dettare. Già era la terza notte che il cavalier Cao lavorare va bene, ma un'intera giornata a sgobbare al ministero e poi la sera lì al palazzo di Sua Eccellenza. Di questo passo non sarebbe venuta più a fine quella esposizione finanziaria. Eppure, tra pochi giorni, avrebbe dovuto essere letta alla Camera dei Deputati. Non ne poteva più. Ma veramente, non era tanto la stanchezza, quanto la sofferenza che da qualche tempo gli cagionava la vista di quell'uomo venerando, per cui sentiva ancora profondo e sincero affetto, se non più l'ammirazione di prima. Aveva già veduto tante cose il cavalier Cao, prima da lontano. Cert'altre ne vedeva adesso da vicino. Non si può vivere, è vero, 70 e più anni, commettendo sempre eroiche azioni. Beh, per forza qualche sciocchezza, o piccola o grande, si deve pur commettere. E una oggi, una domani, tirando infine le somme, si tirava invece, così pensando il cavalier Cao, un ispido pelo dei baffi inverosimilmente lungo. Perbacco, fin sul capo gli arrivava, un pelo solo, nero. Per avvertir meno la stanchezza e la noia di quell'attesa, lavorava di fantasia. Un paio di lenti di Sua Eccellenza lì sulla scrivania erano diventate due laghetti gemelli, uno spazzolino da penne, un fitto boschetto di elci, il piano della scrivania una sterminata pianura che forse primitive tribù migratrici attraversavano sperdute. Sua Eccellenza passeggiava per lo scrittoio, aggrondato a capochino, con le mani dietro la schiena, e il cavalier Cao, alzando gli occhi a guardarlo, con l'immagine di quello spazzolino da penne nella retina, pensò che Sua Eccellenza aveva la schiena pelosa. Pelosa la schiena? E peloso il petto. Lo aveva veduto un giorno nel bagno. Pareva un orso, pareva. Quante cose, quante particolarità ridicole non aveva scoperto nella persona di Sua Eccellenza da che non lo ammirava più come prima. E si meravigliava il cavalier Cao e si rattristava insieme di poter vedere ora così quell'uomo che in altri tempi lo aveva addirittura abbagliato. Acceso d'entusiasmo per le gesta eroiche che si raccontavano di lui garibaldino, e poi per le memorabili lotte parlamentari, strenuamente combattute. Ma ormai Francesco D'Atri non pensava che a sporcarsi timidamente di una tinta gialligna, canarina, i pochi capelli che gli erano rimasti attorno al capo e l'ampia barba, che sarebbe stata così bella se bianca. Il cavalier Cao, a questo punto, tornò a scuotersi come per un brivido alla schiena. Da alcuni giorni era veramente sbigottito della gravità e della tristezza del momento. Tutte le sere, tutte le mattine, i rivenditori di giornali vociavano per le vie di Roma il nome di questo o di quel deputato al Parlamento nazionale, accompagnandolo con lo squarciato bando, ora di una truffa, ora di uno scrocco, a danno di questa o di quella banca. In certi momenti climaterici, ogni uomo cosciente che sdegni di mettersi con gli altri a branco, che fa? Si raccoglie, pondera, assume secondo i propri convincimenti una parte e la sostiene. Così aveva fatto il cavalier Cao. Aveva assunto la parte dell'indignato e la sosteneva. Non poteva tuttavia negare a se stesso che godeva in fondo dello scandalo enorme. Ne godeva soprattutto perché, investito bene della sua parte, trovava in sé, in quei giorni, una facilità di parola che quasi lo inebriava, certe frasi che gli parevano di una efficacia meravigliosa e lo riempivano di stupore e di ammirazione. Ma sì, dai cieli d'Italia in quei giorni pioveva fango, ecco, e a palle di fango si giocava, e il fango s'appiastrava dappertutto, sulle facce pallide e violente degli assaliti e degli assalitori, sulle medaglie già guadagnate sui campi di battaglia, che avrebbero dovuto almeno queste, per Dio, esser sacre, e sulle croci, e le commende, e sulle marsine gallonate, e sulle insegne dei pubblici uffici e delle redazioni dei giornali. Diluviava il fango, e pareva che tutte le cloache della città si fossero scaricate e che la nuova vita nazionale della terza Roma dovesse affogare in quella torbida, fetida alluvione di melma su cui svolazzavano stridendo neri uccellacci il sospetto e la calunnia. Sotto il cielo cinereo, nell'aria densa e fumicosa, mentre come scialbe lune all'umida tetra luce crepuscolare si accendevano ronzando le lampade elettriche e nell'agitazione degli ombrelli tra l'incessante spruzzolio di un'acquerugiola lenta, la folla spiaccicava tutto intorno, il cavalier Cao vedeva in quei giorni ogni piazza diventare una gogna. Esecutore ogni giornalaio cretoso che brandiva come un'arma il sudicio foglio sfognato dalle officine del ricatto e vomitava oscenamente le più laide accuse. E nessuna guardia s'attentava a torargli la bocca. Ma già più oscenamente i fatti stessi urlavano da sé. Uomo d'ordine, il cavalier Cao avrebbe voluto difendere a ogni costo il governo contro la denunzia delle vergognose complicità tra i ministeri e le banche e la borsa attraverso le gazzette e il Parlamento. Certo, lo sdegno del paese nel veder così bruttati di fango alcuni uomini pubblici che negli anni dell'eroico riscatto avevano prestato il braccio alla patria si rivoltava acerrimo adesso anche contro la gloria della rivoluzione. Scopriva fango pur lì. E il cavalier Cao si sentiva propriamente sanguinare il cuore. Era la bancarotta del patriottismo, per Dio, e fremeva sotto certi nembi di ingiurie che s'avventavano in quei giorni da tutta Italia contro Roma, rappresentata come una putrida carogna. In un giornale di Napoli aveva letto che tutte le forze s'erano infiacchite al contatto del cadavere immane, sbolliti gli entusiasmi e tutte le virtù corrotte. Meglio quando essa viveva di indulgenze e di giubilei, affittando camera ai pellegrini, vendendo corone e immagini benedette ai devoti. Ne fremeva il cavalier Cao, perché i clericali, naturalmente, ne tripudiavano. Accompagnando talvolta Sua Eccellenza a Montecitorio, vedeva per i corridoi e le sale tutti i deputati, giovani e vecchi, novellini, anziani, amici o avversari del ministero, come avvolti in una nebbia di diffidenza e di sospetto. Gli pareva che tutti si sentissero spiati, scrutati, che alcuni ridessero per ostentazione e altri, costernati dal colore del loro volto, fingessero di sprofondarsi con tutto il capo in letture assorbenti. Per certuni, nonostante il freddo della stagione, i caloriferi erano mal regolati. Troppo caldo, troppo caldo! Chissà in quante coscienze era il terrore che da un momento all'altro gli occhi di un giudice istruttore penetrassero in esse a indagare, a frugare, armati di crudelissime lenti. Il cavalier Cao sapeva bene che nessuno avrebbe osato mettere in dubbio l'illibatezza di Francesco D'Atri, ma poteva darsi che, per via della moglie, fosse coinvolto anche lui nella rovina del Selmi, che pareva ormai a tutti irreparabile. Eppure eccolo lì, passeggiando per lo scrittoio, e non ricordandosi più evidentemente né di chi stava ad aspettarlo, né dell'esposizione finanziaria, Sua Eccellenza pareva soltanto impensierito di un pianto infantile angoscioso che, nel silenzio della casa, arrivava fin lì da una camera remota, nonostante gli usci chiusi. Già una volta si era recato di là a vedere che cosa avesse la figliuola. Il cavalier Cao non seppe frenar più oltre la stizza. Ma perché, santo Dio? Tutta Roma sapeva che quella bambina... E si alzò come sospinto da una molla, soffiando per le nari uno sbuffo. Sua Eccellenza si fermò e si volse a guardarlo. Subito il cavalier Cao contrasse la faccia come per un fitto spasimo improvviso e disse, sorridendo e stropicciandosi con una mano la gamba, «Crambo, Eccellenza! Ah, già, lei aspettava. Scusi tanto, cavaliere, me l'ho distratto». Basta per questa sera, eh? Lei sarà stanco. Io non mi sento disposto. Saranno le 11, vero? Mezzanotte, Eccellenza. Ecco qua. Le 12:10. Ah, ah, sì? E questo teatro, dunque, quando finisce? E che teatro, Eccellenza? Non so, il Costanzi, credo. Dico, per quella bambina. Ma sente come strilla. Non si vuol quietare. Ah. Forse, se ci fosse la mamma, vuole che passi dal Costanzi ad avvertire. No, grazie. Tanto adesso poco potrà tardare. Ah, piuttosto, guardi, avrei bisogno urgente di parlare con Lauriti. Col cavalier Giulio? Sì, e con mia moglie. Può darsi che non venga su alla fine del teatro. Mi farebbe un gran piacere se lo avvertisse. Di venire su? Ehi, vado subito, Eccellenza. Grazie. E buonanotte, cavaliere. A domani. Il cavaliere Cao si inchinò profondamente, tirando per il naso aria. E appena varcata la soglia, la buttò fuori con un versaccio di rabbia, che mutò subito però in un sorriso grazioso alla vista del cameriere in livrea che gli si faceva incontro. Rimasto solo, Francesco D'Atri si premé forte le mani sul volto. Il lucido cranio gli si infiammò sotto le lampadine elettriche della lumiera che pendeva dal soffitto. Vedeva purtroppo in qual ginepraio si fosse cacciato contro ogni sua voglia e non trovava più modo di uscirne. Tutto a soqquadro, tutto. Qua a Roma l'abbarruffio osceno di un'enorme frode scellerata. In Sicilia un fermento di rivolta. Tra gli urli delle passioni più abiette, scatenatesi nello sfacelo della coscienza nazionale, non s'era quasi avvertito un rombo di fucilate lontane, prima scarica di una terribile tempesta che s'addensava con spaventosa rapidità. Una sola voce s'era levata nel Parlamento a porre avanti al governo lo spettro sanguinoso di alcuni contadini massacrati in Sicilia, a Caltavuturo. Ad agitare innanzi a tutti con fiera minaccia il pericolo. Non si radicasse nel paese la credenza perniciosa che si potessero impunemente colpire i miseri e salvare i barattieri rifugiati a Montecitorio. Sì, aveva esposto la verità dei fatti quel deputato siciliano. Quei contadini di Sicilia, trovando nella rabbia per l'ingiustizia altrui il coraggio d'affermare con violenza un loro diritto, s'erano recati a zappare le terre demaniali usurpate dai maggiorenti del paese, amministratori ladri dei beni patrimoniali del comune. Intimoriti dall'intervento dei soldati, avevano sospeso il lavoro ed erano accorsi a reclamare al municipio la divisione di quelle terre. Assente il capo, s'era affacciato al balcone un subalterno che, per allontanare il tumulto, gli aveva consigliati di ritornar pure a zappare. Ma per via, la folla aveva trovato il passo ingombro dalla milizia rinforzata. Accennando di voler resistere, s'era veduta prima a saltare alla baionetta, poi a fucilate, per aver agitato in aria le zappe a intimorire gli assalitori. 12 i morti, più di 50 i feriti, tra questi alcuni bambini, uno dei quali crivellato da ben 7 baionette. Questo particolare orrendo si era rappresentato agli occhi di Francesco D'Atri così vivo che da 3 giorni, pur tra tante cure e tanto tumulto di pensieri, di tratto in tratto, riaffacciandosi, gli dava raccapriccio. Perché la ferocia di quel soldato, accanita sul corpo di un bambino innocente, gli pareva l'espressione più precisa del tempo. La vedeva in tutti, quella stessa ferocia, e ne era sbalordito. Tra i fantasmi dell'incertezza, in quella vuota, oscura realtà in cui gli pareva d'essere avviluppato, Francesco D'Atri sentiva di punto in punto crescere in sé la costernazione. Ora che le grida rinfuriavano per il salvataggio violento da parte del governo di alcuni parlamentari più in vista e più compromessi. Tra questi era il Selmi, che pure fino a quel giorno s'era lasciato esposto allo scandalo. Non gliene avevano detto nulla i suoi colleghi del gabinetto, ma s'era accorto dalle loro arie che gli si voleva dare a intendere che il Selmi si salvava per lui. Non era vero. Non per lui, ma perché egli era con loro e in quel momento la sua caduta avrebbe potuto determinare il crollo di tutti. Non era intanto peggiore del male quel rimedio? Non aveva saputo opporsi. A come proferir quel nome? Mondo d'ogni colpa, integro, per una sola debolezza, per quella illusione così presto perduta, si vedeva trascinato dalla moglie giù nel fango della piazza, ove una canea famelica di scandalo lo aspettava per farne strazio, accozzando in uno sconcio impasto il suo corpo e quello della moglie e del Selmi. S'era già abituato all'orrore della situazione, ne aveva acquistato il sentimento quasi di una necessità fatale, e il suo sbalordimento era pieno d'uggia, di ribrezzo e greve di una stanchezza dolorosa. Nessun conforto dalle memorie del passato. A richiamarle per un momento non sarebbero valse ad altro che ad accrescere la vergogna e la miseria del presente. E in quell'uggia la vista di tutte le cose, anche dei ninnoli della stanza, acquistava agli occhi suoi un'insopportabile gravezza. Ah, il buio! Il buio, un luogo di riposo, la morte, sì. Tutta quella guerra faceva vincere volentieri il ribrezzo della morte. Che crudeltà! Egli era uno che doveva presto morire, serbargli quella feccia per gli ultimi giorni da ingoiare nel bicchiere della staffa. Ta! Francesco D'Atri si fermò, con gli occhi immobili e vani. Immaginò il tempo dopo la sua fine, il tempo per gli altri. Ed ecco tornata la calma per gli altri, rabbonite quelle onde e squarciato l'orrore di quella tempesta, e nessuna pietà, nessun rimpianto, nessuna memoria di chi si è trovato in quei frangenti e vi era perito. A un tratto, sulla mensola a cui teneva fissi gli occhi, gli si avvistò una piccola bertuccia di porcellana che gli rideva in faccia sguaiatamente. Gli venne quasi la tentazione di romperla. Voltò le spalle, avvertì di nuovo il pianto angoscioso della bambina e s'avviò a quella camera remota. Giulio Auriti non somigliava punto al fratello. Alto, smilzo, elegantissimo, spirava dalla temprata agilità del corpo un'energia vigorosa che gli occhi di un bel grigio d'acciaio attenuavano con un certo sguardo d'orgoglio svogliato. Si cangiò tutto di un subito alla vista del vecchio ministro che gli si faceva innanzi così scombujato. Uno dei guanti che teneva in mano gli cadde sul tappeto. «Ebbene?» domandò. Francesco D'Atri socchiuse gli occhi per sottrarsi alla pena dell'ansia smaniosa che gli leggeva sul viso. aprì le mani e mormorò scotendo il capo. Non s'è trovata. Ah no! Scattò allora Lauriti con una nuova subitanea alterazione del viso che esprimeva sdegno, rabbia e insieme risoluzione fierissima di ribellarsi a una iniquità, senza alcun riguardo più per nessuno. Ah no! Mi perdoni, eccellenza. La carta c'è e si deve trovare. Lei sa che mio fratello Roberto... So, cercò di interromperlo con durezza il Datri. Ma dunque, incalzò Lauriti, quella sola dichiarazione può salvarlo e non deve sparire. Il Datri sedette, tornò a premersi forte le mani sul volto e si lasciò cadere dalle labbra. Il guaio è questo. Che l'autorità giudiziaria... Ma no, eccellenza, insorse di nuovo Lauriti, l'autorità giudiziaria ha in potere soltanto ciò che il governo le ha voluto lasciare. Lo sanno tutti ormai. Il Datri lo guardò, come se egli intanto non lo sapesse. Si rizzò sulla vita e, facendo viso fermo, parve lo ammonisse che non poteva permettere si desse corso in sua presenza a una voce così piena di scandalo. Ma Lauriti, smaniando, torcendosi le mani, aggiunse: «E io che riposavo tranquillo! Ma come eccellenza, io riposavo tranquillo perché c'era lei!» Il Datri s'accasciò, ma subito, come se qualcosa dentro gli facesse impeto nello spirito, tornò a rizzarsi e gridò con rabbia, guardando odiosamente il giovane: «Che c'entro io? Che posso io?» «Come?» esclamò Lauriti. Il Selmi! Ruggì Francesco Datri, serrando le pugna, come se avesse voluto averlo fra le unghie. «Ma sì, e che lo salvino pure!» esclamò Giulia Auriti. «Per salvarlo, però...» «Eh già, e ti figuri anche tu che lo salvi io, eh?» disse lentamente il Datri, scrollando il capo con amarissimo sdegno. «Ma il Selmi stesso, eccellenza!» ripigliò subito con diverso sdegno Lauriti. «Vedrà che il Selmi stesso non tollererà ad essere salvato a costo dell'assassinio morale di mio fratello. E poi, eccellenza, se non parla lui, se tacerà Roberto, griderò io. C'è mia madre di mezzo, eccellenza. L'arresto di Roberto, mia madre ne morrebbe. E il nostro nome?» A questo grido il volto di Francesco Datri si scompose. «Tua madre! Eh sì, è tua madre!» mormorò, e curvo si portò di nuovo le mani sul volto. Stette un pezzo così, finché non cominciò a sussultare violentemente come per un impeto di singhiozzi soffocati. Aveva conosciuto a Torino, giovane, donna Caterina Laurentano e Stefano Auriti, che quel figliuolo gli ricordava in tutto. Pensò a quegli anni lontani. Vide se stesso come era allora. Vide Roberto ragazzo. Pensò a una notte sul mare, con quel ragazzo sulle ginocchia, un'ora dopo la partenza da Quarto. Da quella notte a questa, che baratro! Giulia Auriti, vedendo sussultare le spalle poderose del vecchio ministro, pallidì. Questi, alla fine, scoprì il volto e, rimanendo curvo, guardando verso terra, scotendo le mani a ogni parola, che gridi, gli disse. La vergogna di tutti, tutti impeciati. Vuoi dirmi che sai perché il Selmi prese quel denaro sotto nome di tuo fratello? Allora griderai anche la mia vergogna. Oh, eccellenza! Negò subito con sbalordimento d'orrore Lauriti. Ma sì, rispose Francesco Datri, levandosi. Tutti imbeciati, ti dico, tutti. Muoio di schifo. Il fango, fino a qua! E s'afferrò con le mani la gola. Ma affoga! Questo dovevo vedere, questo. I più bei nomi. Tu vedi soltanto tuo fratello. Non me fare più parlare. So a chi parlo. Ma ormai tanto ne ho fino alla gola. Non è umano. Capisco che non è umano pretendere da Roberto il silenzio. Per sé, per sua madre, per te, per il nome che portate. Roberto, fece Lauriti. Ma Roberto, vostra eccellenza, lo conosce. Sarà anche capace di tacere. E se mi stesso... Roberto tacerà? Domandò il Datri, come se ne dubitasse. Ma io no, eccellenza, s'affrettò allora a ripetere Lauriti. Glielo dico avanti. Io no, per mia madre. Aspetta, riprese il Datri, quasi imponendogli di tacere. Se ho voluto vederti, è segno che ho da dirti qualche cosa. Giulia Auriti lo guardò ansiosamente negli occhi, ma il Datri non sostenne quello sguardo, né ebbe fastidio, anzi, dispetto. Scorse per terra il guanto caduto fin da principio dalle mani del giovine e riebbe fortissima l'impressione di gravezza insopportabile che in quei giorni gli faceva la vista di tutto. Ne distrasse gli occhi e disse cupamente: «Tu sai che i giornali hanno già pubblicato il nome di tuo fratello. Bisognerà, per togliere ogni sospetto di compromissione losca e per non lasciare nessuna traccia, nessuno strascico, pagare?» domandò smorendo Lauriti. «E dove? Come?» Il Datri si strinse rabbiosamente nelle spalle. «Sono 40.000 lire e la cela in mezzanata, sì, Lauriti. Io non posso dartene. Procura e presto. Tu ti intendi, è l'unico mezzo. Un denaro preso da altri?» gemette Lauriti. «Ma come preso?» domandò con ira il Datri. «Questo devi vedere!» «Per altri!» protestò Giulio. «Sei un ragazzo!» «No, eccellenza! È la difficoltà! Dove lo trovo? Come lo trovo? E cerca! Tu hai parenti ricchi, tuo cugino, Lando o i tuoi zii?» Giulio Auriti rimase pensieroso a considerare quale e quanta probabilità di riuscita gli offrisse quella via indicata tra gli ostacoli che già gli si paravano davanti. Per Lando, l'ombra odiosa del Selmi. Per gli zii, la fierezza incrollabile della madre. Come si sarebbe piegata questa a chiedere aiuto di denaro per quel debito non netto del figlio a quel fratello? A piegarla si sarebbe certo spezzata. Decise senz'altro di tentar lui stesso presso Lando. Lui, a costo di tutto, per risparmiare quel sacrificio estremo alla madre. «Che tempo?» domandò. «Presto», rispose il Datri. «Vede tu, 5-6 giorni. Giulio Auriti, perduta lì per lì la nozione dell'ora, compreso già della parte che doveva sostenere, si licenziò e si avviò in fretta, accigliato, come se dovesse subito correre a casa del cugino. Francesco Datri lo seguì con gli occhi fino alla soglia dell'uscio. Poi rimase perplesso, aggrondato, a stropicciarsi con una mano il dorso dell'altra, quasi cercasse nella memoria ciò che ancora gli restava da fare. A un tratto scorse di nuovo per terra, sul rosso del tappeto, il guanto bianco caduto di mano a Lauriti. Quel guanto lasciato lì gli parve il segno che egli ormai non avrebbe potuto più allontanare del tutto da sé le cose, la gente, i pensieri da cui si sentiva soffocare. Sempre una traccia, sempre un'orma, un vestigio ne sarebbero rimasti, risorgenti o incancellabili, come nell'incubo di un sogno. E come se in quel guanto si potesse scorgere una sua compromissione, Francesco Datri si chinò guardingo a raccattarlo con ribrezzo e se lo cacciò in tasca, furtivamente.